Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Negli ultimi anni la biologia molecolare, cioè lo studio della vita a livello delle reazioni chimiche, ha fatto enormi passi avanti grazie a una serie di tecniche come la genomica o la cosiddetta proteomica. Grazie poi anche ai progressi della bioinformatica, tutti questi studi hanno permesso di accumulare una enorme quantità di dati per quanto concerne quindi le basi del metabolismo. Tuttavia questa massa di informazioni è anche frammentata e non si traduce se non in minima parte in conoscenza. È come se ci trovassimo in una caverna piena di vecchie ossa senza sapere come ricomporre gli scheletri da cui provengono. Il compito di appunto ricomporre quindi questo scheletro straordinariamente complicato che è il metabolismo spetta alla cosiddetta system biology, una branca nascente della biologia che ingloba competenze dal campo della matematica e dell'informatica. Ne parliamo con la professoressa Lilia Alberghina, direttrice del SISBIO, che è il centro di ricerca finanziato dal MIUR e con sede all'Università di Milano Bicocca, appunto dedicato allo studio della system biology. Buonasera professoressa Alberghina. Buonasera, dottor Melis. Allora, come funziona il vostro lavoro? Qual è il primo anche obiettivo della System Biology? Perché è un percorso lungo. Il primo obiettivo della System Biology è quello di capire i meccanismi molecolari che sottendono le funzioni biologiche complesse. Le funzioni semplici ormai le abbiamo tutte chiarite. Quello che ci manca da capire sono le funzioni complesse, ad esempio il metabolismo, il ciclo cellulare, ma anche la stessa trasformazione neoplastica. Sono delle funzioni che richiedono l'attività di decine, centinaia, talvolta migliaia di prodotti genici e noi non sappiamo allo stato attuale come questi prodotti genici interagiscono tra di loro. Per tornare al suo discorso della caverna, appunto abbiamo una serie di elementi che devono essere ricostruiti. Ecco, come lavorate? Ci fa un esempio tipico del processo che voi mettete in pratica? Voi abbiamo una condizione A e una condizione B, esaminiamo in ciascuna delle due condizioni, cioè cellule in diverse condizioni, quali geni ci sono, quali messaggeri vengono fatti, come sta andando il metabolismo e così via, e poi cerchiamo attraverso questa informazione di immaginare, e qui la parte creativa se vuole, sì, un modello di interazione. Questo modello viene trasformato in equazioni e quindi in algoritmi da calcolatore e il computer che prevede le risposte. Se le risposte sono congrue rispetto a analisi molecolari va bene, altrimenti c'è qualcosa da cambiare, la cambieremo e così via. Quindi procedete per iterazioni successive, sostanzialmente passando ogni volta dal campo biologico a quello informatico e verificando ogni volta se i conti tornano. Senta, quali sono i principali benefici attesi da questo studio, oltre naturalmente a trasformare questi dati che abbiamo detto in conoscenza? Ma diciamo, si tratterà di diventare capaci di affrontare e gestire fenomeni complessi, quindi ad esempio da un lato patologie multifattoriali come il cancro, le malattie neurodegenerative, le malattie autoimmuni, le sindrome metaboliche, e dall'altro campo, se vuole, molto diverso, gestire i processi industriali biotecnologici in modo che diventino molto più efficiente di quanto lo sono attualmente. Ecco, senta, da un punto di vista dei costi, c'è questo tema insomma della sanità che ha dei costi sempre crescenti, questa System Biology potrà portare a una riduzione dei costi dell'assistenza sanitaria o, come alcuni dicono, una medicina personalizzata farà esplodere ulteriormente questi costi? Ma la medicina personalizzata di oggi tende a farli esplodere, la medicina personalizzata di domani, quando i circuiti sottendono le diverse patologie saranno chiari, lo farà non solo abbassare, ma abbassare drasticamente, perché avremo farmaci assolutamente selettivi ed efficaci su singolo paziente, ma per classi ampie, non per classi limitate di pazienti. E soprattutto non ci saranno tutte quelle patologie che derivano dall'uso improprio che oggi facciamo largamente dei pazienti. Si stima oggi che circa il 50% dei pazienti o non risponda adeguatamente alle cure che rimangono, sì, somministrate, o abbiano eventi avversi. Cioè lei sta dicendo, mi perdoni, che a volte la medicina fa danni e questi hanno un costo, nel senso il 50% addirittura dei pazienti in realtà subiscono dei danni. E quindi lei dice, tra il fatto che eliminiamo delle cure palliative e le sostituiamo con delle cure radicali e eliminiamo questi problemi legati alla variabilità individuale, diciamo, no? Questo fa diminuire i costi della medicina. Di molto i costi, aumentando poi l'efficacia per i pazienti, evidentemente. Grazie Lilia Alberghina. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.